forse questi 70 euro preferite investirli in altre cose. Sono più cessi quelli, cosa te ne fai? Roba vecchia, mamma mia, tutti pensate siete questa roba vecchia, compra roba nuova, roba di fuori, non solo roba russa, quello che è, compra roba nuova che è meglio, cosa te ne fai 23 canali, no? Non usa più nessuno ormai, come te la regalo di questi 23 canali, ma parecchi te la regalo. Ci sono toccai, i poni, i, come posso dire, ci sono stati parecchi di cose, di apparecchi, di... non valgono niente quelli, quelli che valgono sono gli altri adesso, molto molto di più sono gli altri. Vabbè, già in viaggio. Punto, quindi, cosa te ne fai? Ma te ne fai proprio niente, sono i cessi, non ne vuole più nessuno ormai, ma neanche 50 anni non ne vuole più nessuno. Figurati tu, quando vai a vendere ma cosa ne fai? Te lo tieni come costone, intanto, 23 canali. Tu non sai cosa puoi fare al limite. Se tu vuoi pagare una ragazza che ti piacciono, dici guarda, entra a baracchino, ti do l'alimentatore, ti do l'antenna, così entri, mi fai compagnia, parliamo assieme e ci finanziamo. Solo così puoi fare, basta. Per come siamo adesso, siamo 4 canali, che è una vergogna, ragazzi. Siamo... una volta volevamo 200 canali che non ci bastavano nemmeno, ci bastano solo 2-3 canali per la 27, ma si può dire anche da dire, cosa per fare la baracchina? Cos'è il baracchino? Non ne frega più niente, mai c'è il computer, usano quello, capito? Facebook è peggio della 27, finché non è stato Facebook non si ritorna sulla 27, cosa è questo qua, e come la penso io, perlomeno. Quindi bisogna eliminare Facebook, eccetera, eccetera, allora sei tu nuovo sul baracchino. Però adesso, così come siamo adesso, siamo morti e basta. No, c'è più nessuno. Ma con i vecchi CB che rientrano, per dire, se tu vuoi trovare i vecchi CB, sai quanti ce ne sono i CB iscritti su Facebook? Ce ne sono almeno una sessantina. Tu figurati, una sessantina ce ne sono. Se l'ha chiamato ognuno, fa la videochiamata e ci parli di fronte, non è che usa il baracchino. Ormai il baracchino non usa più nessuno, non ne frega più niente, no, no. Dice baracchino, ma più di tempo, non basta, non dico nulla. Sì, come io dico delle chat, che sono una perdita di tempo. E il baracchino è stato il precursore, vabbè. Comunque comprati il dipolo, Comunque ci siamo anche noi per arrivare alla 27, Antone non sei solo. Sì, ma siamo pochi, Antone, cazzo, il discorso è quello. Ma solo ci sei tu, che c'è da quello? A me piace questa cosa, mi serve. Per dire, mi piace conservare le cose antiche, per dire, parlare tutti i giorni, però ormai la gente non ne sarà più un cazzo, capito? Della cosa. Siamo pochi e poi ci decidiamo più addirittura, quindi dobbiamo fare un compromesso, poi ci riuniamo e lasciamo le beghe nostre da una parte e parliamo tutti, o se no siamo destinati a recensione, il discorso è quello, e come la penso io, poi non lo so, io mi sbaglio, però la penso così io. Ah, guarda, secondo me il discorso di litigare è una cosa, secondo me, normale, è anche un modo per confrontarsi, Antonio, non è che se uno cerca a tutti i costi di non litigare, pur di parlare a parato, non c'è il gusto. Ogni tanto ci vuole dei piccoli disguidi e poi tornare alla normalità. Cosa c'è? C'è anche un modo per confrontarsi. E il discorso è che, diciamo, un hobby passato, purtroppo, lo tengono quelle poche persone che veramente ancora ci credono, tutto lì. Altro non puoi fare. Comunque sia, le belle nostre sono belle nostre, e poi gli altri non ce ne fate niente. La verità, io la penso così. Quindi, ma comprato e è rientrato. Marco, il che ha comprato là è quello. E quale? Lo Zodiac. No, negativo no. Sarebbe bello, però anche Antonello ha ragione che è meglio investire in, in apparati nuovi. Eh sì, nuovi, capito, almeno sai che è nuovo, sai come l'hai trattato e ti durerà altri 30 anni, anche di più se lo tratti bene. Ma ce l'ho quello Zodiac lì, nuovo, ce l'ho, me lo ha regalato per tal verde, anche la scatola c'era, hai capito, preciso al cocaie, ce l'ho. Hai capito? No, ma questo è giusto, se uno vuole comprare roba vintage, niente, poi se uno deve comprare un'apparecchiatura seria, compra un'apparecchiatura seria, come, capito? Ma è che quelle per gli appassionati di roba, capito, d'epoca, ma se uno deve comprare una stazione adeguata, si compra, capito, degli apparecchi a 40 canali, a 80 con le bande, quella roba per collezionismo, Antonio, come ogni cosa. Mi, Antonio, quello che sto dicendo, la verità, comunque sia, cioè gli apparecchi 23 canali, sinceramente, al cibo non ne fotte nessuno, il discorso è quello, io metto in testa quello. Purtroppo siamo con i bilirian, anche per dire 34 canali è la stessa cosa, più di 50 euro non valgono, inoltre che mettersi in testa a cazzo di, vedi, c'ho una KB23 nel 67 e ne vale 100 euro, non è assolutamente vero, se tu vuoi vendere la parete lì, qui in Sardegna, purtroppo è così, vendiamo anche la cacca, perché così non c'è mercato, quindi se vuoi un apparecchio tu vendi a quel tanto lì, se no niente, se no non esce neanche a prenderlo, il discorso è quello, capito, per me, cazzo, scusami, comunque sia un apparecchio per dire 50 euro va bene, come il 34 canali per dire, un Inter che c'è 40 o 40 canali per dire quello che è, la cifra è quella in Sardegna, appunto per quello lì. Fuori il discorso è diverso, se lo metti su internet per dire che sono i collezionisti, allora sì, le cose cambiano. Come se tu guardi i filmati americani, per dire ti fai un negozio, quello che è, prendi una cosa di 30 o 60 anni fa e c'è la valutazione, allora sì, lo metti da parte, prendi e lo vendi, c'è un appassionato per dire me lo prendo, quanto vale? Euro. Tu quanto vedi, io che l'ho consegnato, quanto devo fare? 60 euro e basta. Loro si fanno lì tanto loro, il discorso è quello lì. Tutto così. In America fanno così, noi non ci possiamo fare niente, visto che in America, se tu ti guardi i filmati, di Max, di Fox, quello che è, quando vedono le cose che vogliono fare, li impegnano quello che loro le vendono, ci rimettono, perché ci rimettono, perché batte una macchia, per dire, una macchina di ruggine, quello che è, oppure qualcosa, vale di meno, il discorso è quello, poi loro lo vendono di più, naturalmente, che ce l'hanno guadagnato, per dire, così come la roba loro, la roba dell'argento, quello che è. Comunque sia, il discorso è quello, cioè, a me i 23 canali, la verità, non mi è mai interessato, per me non vale niente, il discorso mio, poi se uno è appassionato, se vale 50 euro quello che è, 60 euro, se lo prende, che se ne frega, non me ne frega niente a me. Passaggi brevi. Comunque sì, allora io dico, aspetta che blocco le mic, se è per prendere, per dire, un Tokai a 70 euro, preferisco spendere il doppio, 140-150, prendere per esempio una Game Quinto, una LMS200, quelli me li sono sempre sognati. Capito? È che ti sparano di più. Se uno che sta vendendo un Maio Recco 400 euro, ma questo è scemo, ma chi crede, non lo so, 800.000 lire un apparecchio di metà anni 80, finché sono 150 euro non conto, che sono già 300.000 lire, non so se mi spiego. A proposito, Antonio, a Voghera hanno fatto il solito Amfest, dove c'erano rivenditori che vendevano roba nuova e anche privati che vendevano roba seconda mano, no, insomma. Ho visto che avevano LMS 200 e Alien Quinto, ecco, lì 140-150 euro li avrei anche spesi, perché quelli proprio mi piacevano. Sì, ma non mi piaceva il Quinto, la verità, niente, come non anche le avessi 200, non mi interessa, guarda, la prendere quella per preso al limite un altro apparecchio, per dire, l'effetti 101, che è di quel periodo, la verità, perché di quel periodo là, un apparecchio come si deve, non un apparecchio solo 27, che c'è 120 canali, 200 canali, quello che è. Quella cifra, la verità, per come la penso io è così, non lo so, ci sono Marco, ci sono tanti siti, basta controllare se contiene le truppe di offerte. Lo so, su eBay ci sono dei venditori che vendono anche quel tipo di apparati, poi però se vai a vedere cosa vendono, vendono rastrello per il giardino, case, cuffie stereo, cioè sono di quei tutt'oggi che vendono, lì arriva sotto mano una cosa e la vendono, però sono tuttologi, capito? Cosa ne sanno di radio? Tutti garantiscono che funziona, tutti garantiscono sempre che funziona. Tutto viene fotografato spento, no? E vabbè, quello passi, senza staffa, senza mic, poi vedi, apparato funzionante, no? Però non c'è il microfono, privo di staffa, cioè privo di tutto, hai capito? E allora se è privo di tutto, di microfono, eccetera, come fanno a sapere anche se trasmette, eccetera, eccetera? Bisogna andare da gente che ha sempre trattato baracchini, PHF, capito? Gente anche un po' con la passione sia di comprare che di vendere. E lì ce n'era gente, tu vedevi, c'erano tre Alien Quinto infilati, uno sopra l'altro. Poi Alien Quinto ovviamente ci sono varie versioni. C'è la versione 120 canali e poi c'è la versione 200 canali, che è quella più bella anche. Ho capito, comunque sia, la versione comunque, come voglio io, è, se tu guardi su internet, FT101ZD, guarda cosa ti appare su computer, e ti appare un sacco di cose, 120 euro, 200 euro, quante euro ce ne sono, di quegli apparecchi, che sono decametrici, guarda, e fate un giro, Marco, e poi mi dici, va, forse è meglio quello che l'altro, che un 23 canali, te lo sto dicendo io. Sì, allora, FT101ZD, mamma mia, non mi sei, scusate, non vorrei monopolizzare, poi rilancio subito Gianni Capridue. Ho visto l'FT101ZD, se non sbaglio è datato, se non sbaglio è solo AM-SSB oppure solo SSB, e allora se non ha la M, Antonè, per la 27 non serve, avanti Gianni. No, io lo volevo per collezione così, lo stavo anche comprando, era una sorta di magazzino mai usato, era da questa tipa, proprio San Giorgio, che mi sembra che questa vende anche apparati, vende, non so, ma è tramite persone, me l'ha dato detto, e ne voleva 500 euro, era nuovo nella scatola, però a me non mi interessava, se non fai una M non mi interessa. Ma non ho visto bene che cosa copriva, cosa non capito, solo che quelli che fanno per i nemi sono i capi, e nessuno avevo desistito, però 500 euro per un'apparecchiatura nuova alla volta, perché non per poco, per me, sulla Barracuda. Se compriamo, cioè compriamo in generale, sto parlando in generale, dei Ara 48 le paghiamo anche 450 euro perché qui perché c'ha il modulatore così, il modulatore con là. Hai capito? Quindi a lei, poco fa mi ha detto che uno trovi 300 euro, 140, anch'io li ho visto, però io sto parlando di una roba nuova, quindi se lo parlando quel prezzo, hai capito, vuol dire che si valeva quel prezzo lì. Io non ho comprato nulla perché diciamo era una cifra molto alta per una cosa che poi non avrei utilizzato, quel palazzino dell'altro che ho qui mi da una parte che lo accendo solo per farlo funzionare, che me l'ho comprato più che altro per fare ascolto, riprendi Barracuda. Tomello si è assentato, Marco riprendi. Ma comunque sia, lo sto dicendo, se tu vai in quel sito e fai così, come ti dico io, vedrai che trovi le anche digital, costa non so molto di meno di 500 euro, se lo dico io. Fatti un altro Marco sul computer. Lascia perdere 500 euro, questo che si fa per un sacco di persone che vale. Adesso questa mi sembra che sono la questione delle cattolelle, gli altri apparecchi che ti pagano 350, 400 euro. Guarda Marco, te lo sto dicendo io, non ha pesato di culo quelle valutazioni, sembra di essere il cazzo nel sito dell'automobile, come cazzo si chiama, quella che valgono un tanto di prezzo, perché quella è del 89, l'altra del 90, l'altra del 91. Ma stiamo scherzando cazzo. Che cazzo le fa questi prezzi? No, assolutamente non è vero. Se la macchina roba nuova che non è mai stata usata, non vale quel prezzo lì, ne vale il doppio. Per i chilometri che ha fatto, non per altro. Scusami, ma è così, come la penso io? Se non hai mai usato un apparecchio, ma ti pare che ti fa una trazione così di cazzi suoi? Non esiste, come la penso io. Hola. Ecco, un attimo. Però Antonio, io capisco il tuo discorso, però passaggi brevi. Allora, ho visto l'FT101 ZD, bello, è bello, estetica bello, però vedo che ha valvole, ci sono due valvole almeno dentro, quindi vecchio come il mondo. E poi io leggo USB, LSB, CV, basta, non ha M, non va bene manco 27 allora. E siccome noi non siamo radioamatori, a cosa serve un apparato del genere? No, sto parlando di quello, sto parlando dell'altro, il 101 Digital, quello che c'ha di display rosso, è sempre esattamente lo stesso, ma è digital. Come mai a me è uscito quello vecchio? Dimmi tutto, dimmi marca, modello, bene. FT ZD 101 Digital. Te ne accorgi subito. Che display rosso c'è? C'è quella sbaglia, ti ricordi quello di Alessandro, quello che conosciamo noi, cazzo? Lo ricordi, cazzo? C'era la luce allora, c'è un tablato, infatti aveva MFM, USB, USB. Era bello, veramente bello, si metteva il microfono salerta, era una bomba, era quella cazzo di baracchino. Voglio un apparecchio del genere, uguale, non voglio altro. L'effettiva era 101 digital, con display rosso era. Vado nell'altra camera a guardare, io... Controlla, te sto dicendo, c'è l'FT 101 Digital, ZD, che poi è uguale, poi c'è il modello 1 e il modello l'altro, quello che non me l'ha fortuna a me, comunque sia, è quello, ma è veramente bello. Antonio, stavo parlando di quello che ha visto Marco, di quello con le valvole, hai capito, non di quello digitale. Quello con le valvole, Antonio, che il signor ha parlato. Cioè, non siamo radioamatori, hai capito, però io lo volevo comprare per collezione. Già lo so che capito in AM, però diciamo che se avrei fatto ascolto, hai capito, in LHF, cioè non mi interessava quello digitale, proprio quello lì stavo cercando, quello con le valvole. Con le valvole è meglio gli FT 250, la verità, perché l'ho avuto e è veramente bello. Però gli FT 101, quello digital è veramente bello questo, si mette il microfono su delta, quello con la su io mi. Una bomba esce quel tipo di apparecchio. Era trasferito da Bafo, era transistore, non ricordo ancora. Era veramente bello qua, la verità. C'era stato satellite, ma è una cosa non credere come usciva di Italia, veramente qua. Me lo ricordo ancora, era una cosa allucinante, non so che l'abbia rivelato, sarebbe qua, se avessi saputo, me l'avrei preso io, quel periodo lì. Altro che vuole l'ha fatto, ma altro che vuole l'ha fatto. Io come parlo dell'altro, stavo parlando dell'altro che a me mi piace, quello a valvole che è un bestione, che è uscito l'apparato, che naturalmente ci sono apparecchi adesso, che se lo vedono certi radioamatori ci mettono a ridere, ma ce ne sono certi che ce li hanno e li collezionano, cioè non te lo danno anche, un'ipotesi, che se lo tengono giusto per museo, perché un apparecchio bello, però ripeto, il K sono altrettanto belli, però io stavo parlando sempre per di acquistarlo come cosa per museo, ma poi mi sono detto, dopo le troppe cose che io qui, che hai capito, dico che non prendo mai niente, però ogni tanto compro, faccio, non sai che questa roba sente fine vagare, non so che fine fa, perché i miei figli proprio non gliene frega anche oggi, ero qui, non gliene frega niente, no, sono nati, non era che c'è il computer, hai capito? Ci metto, quando mi vede il mio figlio grande si mette a ridere quando quelle cose corre. Raccusa, ci sei a dove? Eccomi. Che hai trovato là, Marco? Sì, cappa, confermo. ZD, quello con le cifre rosse, con il display rosso, è quello che ho trovato prima. Poi ho visto anche quello con la scala graduata, ma io continuo a dire che è un apparecchio abbastanza vecchio non di età, è a valvole, c'ha solo la banda laterale e il CV doppio, non ha la M, poi c'ha le frequenze a scatti, no? Banda 10 metri ABC, poi c'ha le altre bande HF, non si sa nemmeno se ha sintonia continua, se si può usare 27, capito cosa volevo dire, Antonello? Penso proprio che si possa usare in digital, no, è diverso. Va bene, ma come si chiama? Ma è spento il tablet, hai capito? Non lo sto, diciamo, accendendo molto spesso, e faccio solo guardare certe cose, hai capito? Perché ogni tanto vado a guardare radio, vado e però qui ci sono, guardo ce l'ho qui. E niente, penso, non lo so se il 27, ma non penso che vada bene, mi sembra anche che va il 27, attenzione perché c'era Sandro a Portopolo, ce l'aveva, che il 27 va, però non va come può andare il K, ma quello viene. Lo so, però il 27 o si parla in AM o è un problema. Non ha, vabbè, l'FM no, è scontato, ma non vedo nemmeno M. Non lo so, poi guardo a vedere, io ho per esempio l'IC030, l'ho venduto Nikon perché sì, trasmetteva in 27, però non aveva in AM, non andava bene, invece in SSB ci ho modulato e andava bene. Sempre parlavo di 27, non di altre, avevo provato in SSB e andava bene. Hai capito? E così è questione di il K è l'unico che si adatta, il K è l'unico apparecchio. Hai capito? Io adesso non ce l'ho per fare a scuola, non lo uso mai perché le faccio modulare quei baracchini di usare il K, ma non me la frega nulla, c'è quel collo qui sotto. Tu anche l'accordatore c'hai, Marco? K ho l'accordatore nuovo della ZG. Aspetta, mi devo girare. L'HP1000. Poi io ho il coso qui. L'MFJ 941 ECO. Ah, ma quello è HF. Fa anche 27 a corda, che era 27 a corda, il mio. va da 1,6, 1,7 a 30 MHz, forse anche di più. Ci sono modelli che arrivano anche in 50 MHz, molto ben fatti gli MFG. Non lo so, io l'ho operato, perché non mi interessa, perché se l'uomo io l'ho operato, è capito, ce l'avevo perché mi era capitato, è capito, a scuola avevo contratto il ricco, me l'avevano dato, io sapevo, eccolo qui. Quando avevo contratto il ricco mi avevano dato qui questo accordatore, bellino, bellino. Ok, Pomponio, sparito sei? Aspetta che mi hanno chiamato un attimo sul fresco, 2 secondi. Ok, poi mi chiedo, questo FT101 ZD, le valvole si trovano o non si trovano? Perché l'idea è che quello sia un prodotto dell'80, o inizio anni 80 o fine 70. Bella l'estetica comunque, è bello. Mi è sempre piaciuto, so che hai capito, ma non posso adesso più tirarmi la casa di Biraglio, i baracchini, cioè i miei figli che non li interessano, mio figlio quando si mette a ridere il grande, ha 27 anni, quando vuoi lo che te lo regalo, te lo piatti, come con Babbo, insomma con il credo, però ce l'avevo da piccolo, perché c'è il nome di Babbo, tutti contenti. Quando ti piace, c'è anche una grande nuova nuova, ti piace, no, mi interessa, ha detto, ma sono nati nell'era del computer, hai capito? Quindi diciamo che i più contagiati siamo noi, che siamo rimasti con questa malattia della radio, non c'è una malattia, viva, hai capito? Per gente che ce l'ho appunto, di amici che ci modulavano, gli ho detto, sì ce l'ho, ma non lo attacco più, qui là. Hai capito, dove c'è il mio cugino che per camionista c'era nel camion, però in casa niente, però prima era molto appassionato, ce l'avevo anche in casa e ce l'avevo anche la manto qua mi stai. E niente, perché poi diciamo rimangono a fine proprio i veri appassionati della radio, hai capito? Adesso c'è Facebook e tutti vanno su Facebook, ma quello lì è anche. Marco, cazzo, ci sono, mi vanno a capire le fotografie, cazzo, è un assillo, cazzo, questa qui, si chiama Extra G-Fobi, mi manda ogni 10 minuti le fotografie, e porno, cazzo, mi manda. E tu, mandale una foto tua nudo. Non guarda. Ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, ecco, e me, non ti ricordo niente la malattia, però la foto è da dove è lì, sta succedendo. È allucinante, c'è scritto professor Capao Odu Kuvori na moye siedece, c'è scritto. Cosa cazzo ne so io? Comunque sia, controlla, che lei sta accennando, è tutta la sera che è vedete, quando giù mi mando cazzo, foto una piestrale, questa cazzo forno. Ha visto che ha lei in foto? E cosa ne so, cazzo cosa ha giocato la vita, non ho mai cagato io questa vita. Cazzo, mi mando lì, cazzo, fotografie sue, cosa ne so io? C'è un coso di persone per capire che buona che è questa, se succede mamma mia, mi ha detto chi piace questa pagina, fai a fanculo, vai, se scrivo no. Ma pure anche loro tanto bella c'è da vedere, io non ci sto nel collo, mi sono scritto a pigliare in giro il buco, hai capito, c'è un come si chiama, di stare perdendo tempo, non me ne frega più di niente, hai capito? Non sai quanto tempo fa che ne va, parlo di queste cose, ma io lo uso, come si chiama, per guardarmi le radio, non me ne frega niente, che infatti manco ci sono mi più, l'ho messo, ma come si chiama, però non c'è più foto, nulla, se ho l'altra volta le foto mie col fulmino, qualcuna con l'aereo fisarmonica, perché volevano vedersi le avevo ancora, e così e così, ma perché poi me ne dico, mi hai capito, ma non me ne frega più di tanto, Antonetto. Hai capito? Sono immune a quelle cose lì che tu ci metti tanto lì, non mi interessa niente, hai capito? La radio mi piace di più dei computer. Che se lo stia tentando. Beh, è anche per tasse quella, ecco. Tu dici, qua non è in foto. Antonio, tu mi dici guarda in foto, io non posso accedere a Facebook, io non ho mai fatto l'abbonamento, io detesto Facebook, quindi non posso vedere le foto. E che c'è bisogno, ma parlare con Google. E per prima, lavati subito. C'è bisogno di andare di avere l'abbonamento, devi andare su Google, noti subito, ti hanno il profilo e guardi, se sei interessato, niente, se no sarà mica in culo. Ma Antonello Diossi c'è ancora, che lo stiamo lasciando in parcheggio. La culo a disese. Troppo ping pong. Oh, Capri 2, sai cosa facevo io al computer? Entravo nelle chat con nome di tipo Latina 13, no? Arrivavano questi maniaci a fare proposte oscene, addirittura in webcam ti facevano vedere l'uccello, ci facevano le pugnette, allucinanti. Se fossi stato uno della postale sarebbero già in galera. Allora una cosa. Scherzato, mi ho fatto risate, però di queste cose è proprio negativo, ma io manco, anzi già avevo degli amici e qualche amica di questi cognati, però sempre nel campo musicale, ma così qualche battuta, ma senti anche che andavo in televisione, anche lui così, quelli di buon gusto, ce l'ho per il buon gusto per gli amici. No, solo per come si chiama musicale, però di come si chiama sì qualche battuta con qualche luna, però di queste cose non ne ho mai. E perché c'è? No, non mi interessa, perché è una mondezza Facebook. Ma non era Facebook, no. Erano chat di qualsiasi tipo, che sia Skype, no, che ti vedi anche il video, che sia ex MSN, no, MSN chat, era bella di estetica, l'hanno chiusa. Tutte le chat, poi vai su, allora Antonei, vai su chat roulette, o meglio, vai su Quiero chat. E già ne vedi gente con i pisello in mano, da tutto il mondo, mi allucinante, ci sono solo uomini, perché donne non entrano lì. Ma com'è? È andato a guardare. Ehi, ma ce ne ha come non sarei mai visto. Ma io c'ho il coso, ma è complicato. Sto qua, non sono a guardare niente, aspetta. Se non è maniaco. Non me ne frega, no, c'ho il tablet per la posta elettronica certificata, però lo uso per guardarmi le radio, gli schemari, e qualche motovetto, ogni tanto, qualche. Ma se più la mattina. Niente, capito, ma. Ripeto, qualche film mi sono guardato, ho sceneggiati, ho guardato due puntate della Freccia Nera l'altra sera così, giusto per cazzo di oggi, era nulla, perché stavo anche guardando come si chiama ed è morto proprio l'attore che aveva girato la Freccia Nera, non so se tu l'avevi visto questo sceneggiato. No, negativo. E come si chiama questo attore? Aldo Reggiani. Era protagonista con Loretta Goggi all'epoca in questo sceneggiato. Più tardi guardo. Adesso non ce l'ho presente, ma se lo vedo già realizzo, da. Sì, sceneggiato negli anni 60, era 69, 68 era, che avevamo fatto a puntate. È molto bello, ero un ragazzino e attendevamo la domenica perché era questo sceneggiato che era in 6 o 7 puntate proprio perché era, diciamo, capito, non c'era altro la televisione e dovevano queste cose, era veramente bello, ma non mi sono stato un po' di puntate, il conto di Montecristo mi avevo guardato un'altra volta, proprio il primo con Andrea Giordana, e capito, tutte queste cose qui, vecchi figli di Alberto Sordi, di Totò, capito, queste cose qui mi guardo, poi di altro non mi interessa, infatti detto ci siedo e non ci sono più poco, non so perché non me ne frega nulla. No, quello se è del 69, come hai detto tu, io all'epoca non ero nemmeno spermatozoo, figurati. Invece i miei genitori, zia, madre, eccetera, si guardavano questi sceneggiati alla RAI. Uno era chiamato La Cittadella e l'altro era E le stelle stanno a guardare, non so che roba sia, ma era roba bianco-nero, Anche la precedente è bianco-nero, La Cittadella me ne ho guardato anche lì due puntate l'altra volta, E le stelle è stata a guardare, era un altro sceneggiato che era girato, c'erano questi minatori di una miniera, c'erano il padrone della miniera, secondo queste cose, gli incidenti classici che accadono in miniera, e l'attore era Collo, Orso Maria Guerrini, giovane. Storia antica, ne ho sentito parlare di queste cose, ma ne ho visto, ho già visto la sigla e ho spento, guarda, non mi è congeniale. Ok, perché tu, no, io li ho visti e siccome erano belli, perché non c'era altro in televisione, ma quindi per forza guardavo questi film, ho Alberto Sordi, ho Totò, infatti sono rimasto molto, diciamo, ero ammiratore di Alberto Sordi, dei film di Alberto Sordi, poi diciamo cosa davano. Gli western che davano quando ero piccolo erano quelli con John Wayne, l'Italia Spaghetti con Sergio Leone è uscita dopo, hai capito, mi ricordo che avevo un 13 anni, era andato a vedere poi a Sassari, al Quattro Colonne, era appena uscito, lo continuavano a chiamare Trinità. Carini quelli. Sì, Alberto Sordi poi è un grande, era un grande, vabbè lui non c'è più ma continua a vivere con i suoi film, sì, ma è noto che qua sta salendo un po' troppo il Conquibus, come mai? Aspetta un po'. Ah vabbè, l'apparecchio è caldo, no. Falso allarme, dai. Io lo spento, ce l'ho vicino. Ce lo spendo, sto usando l'Innoiti, poi sotto l'Innoiti c'è il Somercamp PS5024 da base, sotto il Somercamp c'è il SBE Console, vicino c'ho l'altro Somercamp 10423, il Tokai, poi c'ho il Gol, il Midland, c'è le base, quelli che c'ho qui a portata di mano, e quello preciso al tuo è spento. Hai capito, ma ripeto che qui oltre a quello che mia moglie, se si spaccia questa roba, l'ho comprato da questi discount, due come si chiama, di quelli con le ruote che hanno dei quadri di piani piccolini e li ho uniti assieme, due, e così se li posso muovere dove voglio. Però la stazione sarebbe stata fatta, me l'ho già disegnata, me lo sai cosa è? Devo andare a Trico adesso, però c'è disponibilità, perché prima c'ho altre cose da saldare in giro, ma voglio farmi fare a misura le tavole come le ho fatte nel disegno, e capito, poi in garage me ne vernicio, c'ho anche le rola, poi color legno, hai capito? E poi quando arrivo a casa, con l'abitatore, con le autopilettanti, inizio a farlo, tutto come da lea di amatore, il classico, però bisognerebbe andare lì da bricomano, come so fare altre volte, a tagliare qualcosa per tagli, a farti fare i legni a misura, e poi assemblo tutto in casa, ma è una cosa formidabile. Simpatici quelli del legno qui da Bricomen, sembra sempre che abbiano le scatole girate. Oh, ma a me, io molte volte, di più che mia moglie, quando non c'è lì lo scopo, gira tutto, perché non lo, sembra che me lo porti per un orecchio, e ormai si conosce, abbiamo fatto amicizia, ma hai capito. In Italia, anzi, gli ho portato l'altra volta dei cosi a tagliare, che non avevo manco delle tavole con gratui che me le ha tagliate, capito? E niente, no, facciamo quel lavoro, perché io se mi metto a tagliare cosa sono un grande, proprio in cosa di falegnameria, non sono, diciamo, a tagliare, non sono tanto bravo. No, lì c'è quella roba della taglia, hai capito, ci vado già con le misure di quello che devo fare, poi va sembrata, è quello classico di radioamatore, il tavolo sarebbe, ma tutto il multistrato grosso, e come si chiama, due rempiani per mettere le radio, hai capito, è una cosa molto bella, però poi non ho verniciato, io già ho anche la vernice, l'impregnante si darebbe, e poi un leggero stato di trasparente, giusto per, hai capito, la stazione è fatta. Pietro d'appoggio. No, io spazio non ne ho, ho queste cose messe su un trespolo, due apparati, l'accoratore, l'alimentatore, basta. Vabbè, i microfoni sono poggiati qua sul divano e non c'ho spazio io, no. Che quando sono entrato in frequenza ne vedi più pochi microfoni, quello dell'apparato era, e l'apparato ma era unico, passava poi dalla macchina a casa, tutti erano così, adesso è un proprio ne. Capito, mi raggiro, ma ti do la promessa che ho fatto della DPC, quando andavo a guardare le vetrine, un domani ho detto così, ce li ho tutti, e ce li ho quasi tutti di quelli che avevano in vetrina, hai capito, perché non avevo un becco di un quattrino, però andavo a farmi almeno gli occhi, li prendi un po'. Vabbè, quello sì, la vecchia, quello purtroppo è, quindi bisogna arrangiarsi, che va quella. Cerca di fare, di ricordare, nel 90 o giù di lì, quanto costava nuovo, quanto poteva costare nuovo un Superstar 3009 o Connex 3009? 600.000 lire costava allora, non sto dicendo perché l'avevo pagato così il mio. La prima serie, cioè la seconda serie, non la prima, la seconda serie costava 300.000 lire, e questo l'ho comprato io. Infatti che sarebbero 300.000, non lo so, quindi sono 225 euro di adesso. 80.000 per 100 Antonelli, circo elettronica, a 180.000 lire costava, ma Superstar 3009 semplice, senza frequentimetro? Mi sa proprio di sì, io ce li ho in garage, adesso non ci posso mettere mano, perché li avevo portati in garage, tutti ho tutte circo elettronica, dal 72 fino al, diciamo, agli anni 90, hai capito? continuità, non so se avete detto, ma mi sembra di noi, ma non sono sicuro. Adesso a dirti comunque, l'avevo adocchiato e costava 180.000 lire. Sì, di più costava. Io mi sono capito, io ti faccio vedere un 5 elettronica, adesso sono andare con i prezzi degli apparecchi e con i siti baracchini che del 73, se sei allora era il cazzo che la degli apparecchi, lo stesso apparecchio, altre vite te lo davano 5.000 lire in meno, 10.000 lire in meno, che quello che lo dava 2.000 lire in più del prezzo, così e giocavano quei prezzi un po' meno. Ma secondo te sono stato invece che a comprarmelo io, 300.000 lire. Allora pensavo così, figurati tu. Ho pagato così me, sono arrivati 7 di quegli apparecchi, non 7 sono arrivati, la seconda serie, non la prima serie. Quindi figurati tu, allora sono stato imbecille io a comprarlo. Sono arrivati da fuori, sono arrivati 7 addirittura. Allora sono preso, in giro a un certo punto. Ci contavo 120.000 lire l'uno, ma fa culo, allora mi ha preso per il culo a un certo punto, siccome sono arrivati 7, tutto al stesso prezzo, allora siamo stati 7 e siamo incolati. E che come si chiama e in che periodo, se, perché poi anche se lo comprate l'anno dopo passava di prezzo come ogni apparecchio e non lo so, io l'avevo messo a quel prezzo, però non so gli anni Antonetti, già guardo domani, tanto vado in garage e così mi devo anche lo spizio e mi prendi Marco. Sì, allora Capri 2 ti dico solo che nell'86, no? Un 34 canale omologato, l'FM 500, e ce l'avevamo pagato 200.000 lire. E poi fammi pensare di quelli che abbiamo avuto. Allora, io ho avuto il Multimode 3, ti sto parlando dell'86, 87, 88, 335.000 lire, il prezzo suo a Sassari era quello. E aspetta, il Comex 3009 che abbiamo avuto, non ti posso dire quanto costava perché proprio non me lo ricordo, però un 200 canali, meno male almeno 300.000 lire dovevi pagare a Sassari, se poi lo compravi da Elettronica, questo, Negrini Elettronica, sai quelli su CQ Elettronica, magari li pagavi 250 più la spedizione, alla fine siamo lì, tra vaglia e tutto. No, per sapere quanto si può pagare adesso un 3009 oppure un Connex 3009, quanto può valere, perché la gente, in poche parole, io quando avevo roba usata mia, in qualsiasi campo, roba usata, che fosse più o meno usata, si vendeva a metà prezzo, invece per i baracchini non fanno così. Perciò i baracchini mantengono il prezzo, mantengono, a Tomello può dire quello che vuole. Che adesso tu parlando di come si chiama Tomello, di questi tempo, anche io di cosa l'ho pagato, te lo sai, da chi l'ho preso, l'ho pagato quella cifra lì e anche l'altro, ed era, hai capito, un 23 canali a Tomello, tornando al discorso di poco fa, no? Ma che c'è, scusami, ognuno può dire ciò che vuole. Adesso tu giudica poco, ci sono 2 metri dei canali, la macchina, 50 euro ognuno, allora quello è imbecille, a un certo punto, scusami, per vendere 50 euro ognuno, allora può dire, dove è 100 euro, un coso, un HB23, allora scemo lui, a un certo punto, il discorso è quello. Ognuno fa il prezzo che vuole, già lo sai che è tutto, quindi la penso io, il discorso è quello lì. Se tu lo vuoi così è un conto, se tu lo vuoi così ti arrangi di quello che c'è. Io sai, 300.000 lire, ho pagato il 3009, allora, ne sono usciti 7, non di più, il secondo modello. Il modello erano usciti prima, ne sono state vendute 15 Alghero addirittura, e ci ha ciao che carriera, io ho creato il secondo modello, poi dopo quello è uscito il 4005, poi dopodiché era quello con l'Ecco, poi dopodiché c'è uscito un sacco di altri tipi di apparecchi, quello che sono, quello comunque sia. Perché è quello, non è che ti puoi aumentare più di tanto la verità, se lo testo una volta penso che adesso cambia molto molto molto, cambia la verità, come la penso io. Boh, perché Antonio ti faccio un paragone, no? Metti, facciamo che nel 90 costasse 300 euro, no? Un supercar 3009 alias Connex 3009, adesso lo vendono 130 euro, 120, 130 fai, no? Prezzo medio. In euro però, se tu pensi, sono 260.000 lire. Vabbè che 300.000 lire nel 90 erano di più, in teoria. È sempre troppo prezzo tengono. Ma scusa, perché i baracchini dovrebbero tenere il prezzo? Dopo 30 anni. Una macchina, per esempio, da nuova costa, dopo 30 anni un rottame, è una cosa da buttare, quanto vale? 500 euro nemmeno. E allora perché i baracchini li sopravvalutano? Ci sei arrivata, ma domani, come stavo dicendo io, quindi allora se il 3009 che ho pagato io era 300.000 lire, quindi in pratica dovrebbe essere, ci spiega 50 euro una volta, cioè ci sono 50 euro di adesso, in teoria, niente di meno. Siccome vale molto di più, a un certo punto, cioè da una cosa all'altra, sono cambiate, però c'è quel problema, gli apparecchi antichi in pratica perché devono fare il doppio di quello che valevano una volta in lire? Scusami, se io ho pagato per dire un apparecchio in 500.000 lire, per dire, perché devo pagarlo 1.000 adesso? Non esiste, perché non esiste, prego di 20 anni, il discorso è quello. Quindi le valutazioni le fanno la gente che si fa influenzare, perché a un certo punto io non avrei mai pagato una cosa del genere, cioè se tu mi offri un apparecchio che costa, se io l'ho visto quel periodo lì, costava 500.000 lire e adesso pago 1.000 euro, è bello, assolutamente, su cui ci siamo dopo 20 anni, hai capito? Il discorso è quello. Dopo la gente non controlla, ma le valutazioni tramite non so che cosa, sembra di essere, qualche posso dire, all'auto A, diciamo le valutazioni, per dire, la macchina di quest'anno qui deve valere così, la macchina di quest'anno qua deve valere quest'anno qua, hai capito? Il discorso è quello, sono messo in testa così, cioè non è che una persona pensa che l'apparecchio ci sia 40 anni e sia valutato così, cioè più è vecchio e più è valutato, non è assolutamente vero, più è vecchio più è un cesso, è così, è come la penso io, i pezzi non ce ne sono, come hai detto quei pezzi, che cazzo per metterla a posto secondo te? Cosa fai in Africa, vai a trovare i pezzi, cazzo, a un certo punto, io la penso così. Praticamente Antonio, i baracchini vecchi, perché non è a dire vintage, i baracchini vecchi se li fanno pagare come quadri d'autore, capito? Col tempo prendono valore, o comunque tengono il valore, questo di tenere il valore a me mi sa di fregatura, perché tutte le cose si svalutano. Io ho un video registratore che costava tipo 250 euro di, che ne so, fai che siano 5 anni fa, io sapete quanto l'ho pagato? 30 euro, la valutazione di quel videoregistratore che 5 anni fa costava 250, adesso si vende a 30 euro, baracchini no, capito? Sì, sì, lo so, ma sono in America, tu mi fai di Max, coso, prima, per dire, ci sono quelli che vendono la roba a seconda mano, di tutto vendono lance, coso, che c'è una valutazione, hai capito? Tu figurati tu, a che punto siamo messi? Oh no, c'è gente che cazzo che va lì, per dire, a Di Max cazzo che va a impegnarsi in loro, cazzo per andare a giocare, cazzo le macchinette, a cosa. Non è possibile, guarda. Eppure è così. Un attimo io vado a vedere una quotazione in fretta, eh. Ok, che cavoli da tutto. Ok, a te, mi saluto anche a Marco perché domani mattina mi sono alla sveglia e ci sentiamo magari domani sera per una chiacchierata. Per il momento una buona notte a tutti e accendiamoci in ascolto. Altri due fa QRTSK, riprendi con Pugno. Ciao, capito, ci sentiamo domani al limite. Alle prossime, stammi bene, buonanotte. Ciao, buonanotte a te. Buonanotte anche a te. Antonio, ci sei? Hola, chi c'è rimasto? Sono qua, che devo fare. Va. Allora, siccome è un modello vecchio, non riesco a trovare la quotazione italiana nell'anno in cui è uscito, o addirittura nell'anno in cui hanno finito di produrlo, Ho visto un ennesimo annuncio spagnolo, no? Usato, in perfetto stato, con telecomando, 20 euro addirittura, 20 euro. Sarà, penso, di una decina d'anni fa, forse anche meno, chi lo sa, forse anche meno. E come vedi, perdono cose, baracchini no, baracchini, e quello lì, quello scemo. Allora, il Maiorecco era costoso rispetto al multimode, non so perché, costava circa 400.000 lire, credo, negli anni in cui è uscito, no? Potrebbe essere anche 350, che ne so, ma io vedevo 400.000 lire. Adesso c'è un tipo che lo sta vendendo 400 euro, vintage 400 euro, sono 800.000 lire, praticamente lui lo sta vendendo a più di quanto l'ha comprato, cose da pazzi. Cosa sono tutto? Vabbè, però ti dicono, ma l'amatore lo compra anche a quel prezzo, è come le 500 vecchie, Antonio, le 500 vecchie ristrutturate in perfetto stato, se le vendono a 3.000 euro, insomma, 6 milioni di lire sarebbero attuali, e l'amatore lo compra, ma... L'amatore segue una quotazione media, non credo che compri un apparecchio a 400.000 lire quando ne costava 350, 400.000 lire nuovo, no, di tanti anni fa. Appunto, fa quello. E poi la circuiteria, i circuiti hanno lavorato, non lo so, tutto bene o male si usura con l'utilizzo. E vabbè, infatti rimangono lì. Ho visto gente vendere l'Alan 48 normale, vecchio di 20 anni, a 400 euro. È bello che ogni tanto c'è qualche coglione che li compra, capito? Perché lo scrivono apparecchio eccezionale, marca notissima, così colà. Ci capita il gonzo che se lo compra. D'altronde, io di persona ho visto un cretino che si è comprato un ricevitore, per dire, ICOM, IAISO, no, quelli da 150.000 lire, 600 euro l'ha pagato, 600 euro, l'ho visto io. Quello scemo, 600 euro, capito? Sai perché? Perché gli hanno detto, riceve la polizia, qualcuno ha sentito che riceveva la polizia, gli è venuto un cortocircuito nel cervello e l'avrebbe pagato qualsiasi cifra, capito? E vabbè, così, se l'avessi saputo io, gli avrei venduto il mio, cazzo. Che ce l'ho il mio? Guarda che ce l'ho io, 78, se voglio, purtroppo lo vendo per dire, ma cosa me ne faccio? Cioè, avendo, me lo tengo io se la piglia in culo, cosa me ne frega a me? Dici del svettitore, a un certo punto, me lo vendo, cioè, me lo vendo per niente, cosa me ne faccio a venderlo? Mi sta bene a me, tanto per quello che vale gli apparecchi, vuoi io adesso, 50 euro, ma ce la fai? Ti però invece le trovi su internet. Ah, tu quello l'avevi preso nuovo? No, l'ho preso su una mano, la vecchia, cioè, la vecchia. Me l'ho regalato, non è che... Per dire, ma a un certo punto... Cosa faccio? Me lo vengo di 500 euro, no? Me lo tengo perché è mio. Ma non è che posso venderlo per dire 500 euro quando ci sono i pui 50 euro quelli cinesi, per dire. 30 euro mi viene già di batterie, figurati tu, sono di più. Allora, mi pare che il TH75, quando è uscito, costasse 750 euro. Figurati, il mio è 78, figurati tu. No, no, Tony, ho detto male. Allora, quando è uscito il TH75, costava 750.000 lire, non euro, non c'erano gli euro all'epoca. Non so se mi spiego, un portatile. E i subtoni erano opzionali, tutto opzionale era, capito? Adesso con 30 euro. Io il 73, il TH, 73, quindi figurati tu. Io mando messaggi e tutto, quindi se avete 5 vacche uscita, cosa vuoi di più? Un lucano ci va quella. Eia, cosa ti volevo dire? Che sì, quelle cose costavano e costavano parecchio. Allora, il 5R, no? Il V5R riceve battimento appena gli metti l'antenna veicolare o esterna, ci siamo? Provato da me con uno apparecchio simile, cose uguali. Con l'antennino suo riceve bene, come gli metti l'antenna di macchina o di casa, addio, prende battimento da ripetitori TV, ripetitori cellulari, radio FM e tutto. C'è un modello invece, il Baofeng UVB5, segui bene, UVB5, che non ha quel problema, tu lo puoi attaccare all'antenna di macchina, all'antenna di casa, la banda, e riceve bene. Provato dal solito radioamatore siciliano, quello del Feitong. Allora, okay. Adesso siamo. Sì, magari l'estetica non è stravagante e particolare come un V5R, però il funzionamento è quello che conta alla fine. Beh, quello è logico, quindi. Che vabbè, 32 euro, mi pare. Cose pazzi proprio. Figurati. Naturalmente a me non serve perché ho due scanner usati in fly, poi ho PMR che non, è conto, non li conto più, e le PD, cosa vuoi di più? Sono già fili voi. No, no, grazie, non c'è bisogno. LPD, vabbè, comodi alle minime distanze. Alle minime distanze sono comodi se non vuoi essere sentito troppo lontano. Antennistica dovrebbe arrivarci su in città. Da dentro casa al tetto, non so se ci arrivi. Portata ottica sì, vanno bene, però anche quella è minima poi. E non ti preoccupare, già fa più di quello che pensi tu, non ti preoccupare. Quindi già lo usiamo adesso. tanti anni fa ho provato su spiaggia con un'altra persona a usare il PMR, il Brondi FX10, no? Il PMR ha 500 mW fasulli, no? ERP, che in realtà sono 200 mW, vabbè, solo vogliamo 500 mW facciamo. Dichiarato 5 km, ho provato, ne fa 2. Mi sono allontanato sempre di più. Una persona era in spiaggia, senza ostacoli, dalla parte della riva. Mi sono allontanato sempre di più, di pettine in pettine. Dopo 2 km spariva il segnale, quindi la portata reale era 2 km rispetto a 5. Io non so 5 km dove li faccia questo apparato. Forse nello spazio può farli 5 km, dove non ci sono, cosa ne so, come dire, assorbimenti da parte dei... Non lo so, Antonio, non te lo so dire. Gianni fa comunque 5 km. Li fa, li fa, non ti preoccupare, 5 minuti li fa, e veloce li fa pure, perché io ho usato un apparecchio lì da casa in tram, addirittura sono arrivato fino in Piazza Castello da qua, subito faccio vedere a mio fratello, mi ha accompagnato lui, figurati tu, quindi li faccio quei 5 minuti giusti, giusti, giusti li fa, forse li fa anche in più, non molto, ma comunque mi fa qualcosa in più. Ma tu eri a casa tua, cioè praticamente al secondo piano? No, Giampiero era giù, primo piano, il piano della casa, primo piano. E io ero in tram, ho preso l'auto, sì, ho preso l'auto. L'ho chiamato e mi ha accompagnato fino all'incrocio con Piazza Castello addirittura. Sostanto le prove vanno fatte sul livello del mare. C'è pianeggiante proprio, no? Senza ostacoli, 5 km hanno fatto. Quello che fa molto è anche l'antenna, Certo, l'FX10 c'è un attimino, sembra la mollettina di quelle penne birro, no? Quelle che premi il pulsante e c'è la punta. Se hai un'antenna tipo l'MT5050, la cosa migliora. Se poi tu hai un'antenna del Midland G9, che è un'antenna lunga pare 12 o 15 cm, migliora ancora di più. Un'antenna fa molto anche. No, facciamo l'antenna io, attimo, che terreno per la testa. Già che ho portato io altrettanto, quindi abbiamo fatto tutti e due assieme. Mi ha accompagnato fino a Piazza Castello, all'incrocio addirittura. Con quei portati di invito, quelli che si usano, i primi sono usciti. Io ero uno di quelli che si per il biglietto pensavo a casa con tipo orologio uguale, quindi parlavamo assieme, lo succedo io, sono chiesa io e mio fratello, adesso non è vero. Ma io voglio sapere marca, modello, tipo, non ti sto capendo, Antonio. Perché il modello non me lo ricordo adesso, la verità, comunque sia, te lo faccio vedere. In caso te lo faccio vedere, non c'è problema, te lo guardi tu. Proprio PMR 446? Sì, PMR, sì, esatto. 446, sì. No, perché una cosa è PMR, punto. Una cosa è PMR 446, che vuol dire antenna fissa, di solito antenna di cacca, e poi 500 mW ERP. Se tu parli di PMR, tipo guardie giurate, no? Poi ci hanno già qualche watt. Non è quelli, lo sto dicendo. Ok, non erano modificati, no? Assolutamente no. Ma io ho misurato 2 km. poi sono andato in macchina, praticamente sono arrivato da un pezzine a un altro pezzine, di cui non mi ricordo il nome, sulla litoranea erano 2 chilometri, poco più, poco meno, all'incirca 2 chilometri. Vabbè, comunque sia, quello che lo sto dicendo, Michele Giampiero, sono il vero. Tipo, solo ti faccio vedere, che facciamo le prove. No, perché in UHF è dura in città, molto dura. E ci sembra, purtroppo invece è altro che dura, Fatto sta, adesso te ne dico una. Mamma ne ha preso una, era in camera sua, la camera sua dà su Viale Mameli, per dire, era nella camera, piano terzo, piano primo, ho rialzato, come lo vuoi chiamare? Io sono arrivato, dunque, Viale Trento, tutto a posto, via Bellieni, tutto a posto, via Roma, ancora, tutto a posto, via Tritalia perdeva il segnale, allora cosa dovevo pensare io? Allora, che io invece sono arrivato da qua, fino a Pace Castello, all'angolo, dimmi tu, quanti chilometri sono, secondo te? L'ho fatto con la 8, dentro al camere, allora con la col camere, e con quei portatrici che però che si mettono nel braccio, quelli che vendevano la volta, figurati tu, che merda. E quel rumore di molla cos'era? Questa è la mia, quello non ti preoccupare, figurati tu. Allora, figurati tu, due portatili, io mi abbraccio con la cuffietta o coso e il fratello che sta a terra fino, uguale, fino alla gola di coso, addirittura, di Pietro Castello siamo arrivati, non di più, la verità. Via. Una volta un tizio, siccome noi non ci credevamo, ha misurato la potenza RF togliendo l'antenna, mettendo rosmetro, wattmetro per UHF più carico fittizio, ovviamente toccando centrale calza, cioè la massa dell'apparato, 500 milliwatt, cioè fregano il pubblico dicendo 500 milliwatt quando invece quello è ERP, effective radiated power, a me pare una buttananda. Baracchini li misuriamo in watt di RF, non questo ERP, fatto sta che danno 200 milliwatt di RF, no? I Brondi FX Dynamic, no? Quelli sono già carini, antenna, vabbè, così, 200 mW, quando le modifichi arrivano a 1,8 watt, 1,6, 1,8, sai che sia 1,6, no? 1,6 watt, quindi 200x4, 800 mW, e già guadagni un Santiago, e aumenti molto la portata. Poi 800 mW per 2,16, un Santiago e mezzo guadagni, però agli effetti della portata ottica dovresti guadagnare abbastanza. Ecco perché sono dichiarati 12 km, se le modifiche ne fanno 12 in portata ottica. No, sono dichiarati meno, 6 km sono dichiarati, ma neanche addirittura, non 12, 6, ci vedo anche tu, mi bastano anche 3 per dire, comunque sia, io, cioè mi ha fatto, cioè, tu già però quando vuoi tu, te lo dico io, gli chiedi, ma come accompagnava Antonello giù al centro storico? Fino dove l'accompagnavo i chiedi, fino a Pezza Castello, perché ci sentivamo fino all'angolo, con la auto, allora passavamo così, passavamo via Carlo Felice, poi scendeva via Lombetta, poi scendeva fino all'angolo di Pezza Castello, scolavo lì, boh, che è Santonella. E basta. Quindi la voglia subire 3 km è la verità, come la penso io, o no? Vabbè, no, ma io ti sto dicendo, la Brondi, gli FX10 li dà per 5 km, no? Gli FX dinamici sono dichiarati portata massima a 12 km, ma io ti dico perché. La Brondi ha fatto una furbata. Gli apparecchi sono modificabili, tu sposti una levetta sotto il vano batterie e aumenti la portata. Ma ti dirò di più, che la Brondi li sta già vendendo modificati. Tu li compri, a me è successo, li ho presi ed erano, la levetta era già stata messa in posizione alta potenza. Capito la furbata della Brondi? Per motivi legali li vende come 500 milliwatt. In realtà quelli danno 1,6 watt, se non addirittura 1,8 watt. Ecco perché arriva a 12 km, perché c'è 1,5 watt. Ah, ecco perché, visto che... Comunque la Brondi non è nuova a fare cose un po' ai limiti del legale, oltre la legalità. Allora, aveva fatto dei PMR da polso, che non sono i tuoi, dei PMR da polso con un mini antenino, e ci aveva messo anche lo scrambler però attivabile. Siccome con scrambler non sono omologati, non si può assolutamente usare, li hanno ritirati dal mercato, non si sono più visti, addirittura sono spariti da internet, non è possibile trovarli, forse li hanno castagnati e li hanno fatti ritirare dal mercato. Poi aveva fatto un VHF marino, un piccolo VHF marino, che però riceveva oltre, andava fino ai 163 MHz mi pare, o di più, e anche quello è sparito, dopo poco tempo è sparito dal catalogo, forse perché andava a ricevere cose che non andavano ricevute. È strano che non li abbiano ritirato anche questi FX Dynamic, forse nessuno si è accorto dell'inghippo. Sono qua, aspetta un secondo, mi hai detto una cosa, aspetta un secondo, che controllo. Aspetta che c'è una cosa che te l'ho detto dopo. Senti, ti vedo con l'asso. Ascolta, Blondie FX 80, cosa ti dice te? Marco? Da 4 watt, non è vero, misurato da 1,8 watt reale, 1,8 watt, nelle pedine da 3, vabbè, quello è un altro conto. Quindi quando anche questi venditori di baracchini così indicano potenze non reali, quando vai a misurarle con rosmetro e carico fittizio, ma wattmetro e carico fittizio, risultano sempre potenze, dichiarano potenze false, meno della metà, capito, è la potenza reale. Io ho capito, Marco, che tu che ti ho capito per quello. Ma no, noi che lo sappiamo non ci facciamo fregare. Invece c'è una zona, invece prende un bel UVB5, c'ha 4 watt effettivi in UHF, e così è ancora più meglio. La botta dei 5 watt sei canali nuovo, la mica che ho io e ce la va conservata, te lo dico io, altro che quello, è anche buona addirittura, mamma mia, ancora buona. Beh, se è buona, buona, come il vino, fa più invecchia, più migliora. E già lo credo, già lo, mamma mia, ho visto da poco, guarda, ma forse per mia moglie è guai, cazzo. Se avessi stato tutti i giorni che ha sentito, ci sarei stato, cazzo, da conto di contentarla, cazzo. Spirito, sì. Sono qua, mi sto grattando. Le palle o cosa? Sì, a dire il vero, sì. E dove le palle? Beh, perché io fuori grattare, a me piace grattarmi, poi la pelle si sensibilizza e quindi ti viene voglia di grattare sempre di più. Forse mi gratta anche gira gira. I coglioni però, cazzo, il nuovo cazzo è degli ultimi che ricevo ogni giorno, c'è quello che fa agli altri, non me. L'auto con ferro, cazzo, mi ha che mangio carciofo domani mattina. Ma io vado al supermercato, mangio un po' di carciofo in modo da toccare il ferro, cazzo. Ah, tutto li ricordi chi Maxon? Maxon c'era il portatile con 6 canali, oppure un canale, oppure quelli a cuffia da mettere in testa, sui 49 MHz. No, c'è il Maxon è 49 MHz, tutti quanti 40 canali, a quanto me ricordo io tutti quanti 40 canali, poi non lo so, io avevo visto 6 canali, ho detto, 40 sì, ma 6 canali no. I Maxon, sto parlando di quelli. E praticamente la Maxon produceva dei portatilini, non esistevano i PMR, vendevano questi portatilini a 49 MHz, i portatili avevano l'antenna a stilo, telescopica, e poi avevi anche le cuffie da mettere in testa, no? Con Vox, 49 MHz. Fatto sta che erano dichiarati 900 metri, io li ho provati a San Giovanni in un rettilineo, proprio in strada, a terra, non dentro la macchina. Dichiarati 900 metri facevano solo 300 metri. È la stessa cosa, sta adottendo. Addirittura mi è rimasta la scatola. Oh, comunque non erano omologati miei, perché in Italia 49 MHz non... pochi c'era, telefoni c'erano all'epoca, c'ho la scatola ancora conservata dal Maxon, gli apparati si erano rotti, ti faccio vedere la scatola, erano carini miei anche, utili per sempre, cantieri, antennistica, male varie. Purtroppo resta qui, resta lì, si sfasciano la roba. E vabbè, pazienza, peccato, averli avuti sarebbe stato un bel ricordo, utile anche, come l'LPD. Un secondo. Non piangere per me. No, sta rottendo, 2 secondi, aspetta. E poi ti richiama. Ti si secca la pigiona anche me. Sì, sì, usciamo. Ehi Antonè, dicevo, questi Maxon, tu non te li ricordi, era la stessa ditta che fa il Maxon, no? Erano utili come i PMR, come gli LPD erano, no? Andavano con, c'erano 3 modelli, il modello con un canale portatile, il modello con 6 canali portatile e il modello a cuffia che aveva non so quanti canali, forse 1 o 3. erano carini, mi costavano un bel 100.000 lire negli anni 80, 100.000 lire l'uno. Ma come è comunque? Voi utilizzate fuori e abbia il culo a un certo punto. Se funziona va bene, se no nel momento che c'è che assamma. Poi adesso bisogna sapere che ci sono qui UHF, DML, cose che sono. Costano di meno, quindi a questo punto cosa te ne vuoi che so? Per fare niente. E vabbè, ma erano legali o quasi legali. Io in realtà non sapevo, c'era solo la CB libera da usare pagando naturalmente la concessione, ma quelli venivano venduti, ma non so quanto fossero legali. Non era legale come MR adesso, li vendevano e poi non lo so. Certo è che se facciamo la potenza doveva essere forse tipo radio ducatomi, 10 milliwatt penso avessero, ecco, per fare a 300 metri 10 milliwatt, non di più. E quelli che sono, diciamo, per lo stesso se la pieno. E poi ricordati, io mi sono pentito di tutta la roba radio che si è rotta, o che ho rotto per mia incuria o per roba venduta, me ne sono pentito sempre. Visto è anche il multimode, no? All'epoca si diceva che fosse una cagata solo perché prendeva splatter, no? Ma immaginatelo in questo periodo, no? Che praticamente non c'è nessun altro in canali, anche gli splatter è un normale baracchino con 200 canali, AMFM banda laterale, i mezzi canali, tutto bello, bello, sarebbe piaciuto averlo ancora, poi l'avevo dato a te, e io invece con quei soldi mi ho preso, mi pare, quello di satellite che era l'Excalibur Samurai. Ci stiamo lavorando, Antonio, io adesso sto parlando del campo di radio, poi le ragazze sono insulse, non ne sanno manco usare il baracchino. E c'è la CB, la serra, cosa su Facebook, meglio, non usare il baracchino, mamma mia. Ce ne sono un paio, ce ne sono, che parlo del baracchino, ma tutti un paio, ce ne sono 5 o 6 persone. Di saperne, io mi ricordo che all'epoca, negli anni 80, mamma si era fatta la tabella di corrispondenza dei canali sotto per i vari tipi di apparati. Ti spiego, col multimode 3 più il numero aumentava nei canali sotto, più andavi sotto, come i numeri negativi della matematica, no? Più scendevi, più il numero diventava grande, no? Quando eri sul 40 sotto, eri veramente 40 canali sotto l'1. Invece nel Sconnex, nel Superstar, no? C'era la volgare canalizzazione, praticamente 40 canali banda A, banda B, banda C, no? Lì c'era fatta la corrispondenza tra il multimode, il superstar e i 34 canali omologati, capito? C'era fatta tutta una tabella con la corrispondenza dei canali, compresi quello omologato, capito? Che non si capiva mai quali erano i canali sotto dell'omologato. Si può utilizzare, ripeto, la cosa. Dimmi, Antonio. La cosa cambia, non ti risulta, è diversa, sono frequenze diverse, è che è contrario, hai capito? Sì, appunto, no. E praticamente i canali del multimode, le superstar, erano invertiti i canali sotto. Lì si era fatta la tabella con le corrispondenze, e compresi anche quelli di 34 canali, cosa che nemmeno io avevo fatto. Caspita, ne sapevami all'epoca. Adesso, vabbè, ormai non ne tratta più. punto, ma comunque sia, è come ti dico io. Superstar, che aveva il multimode, non ne capiva niente dei canali sotto, e cioè ci era fatta tutta la corrispondenza dei canali. Utile, cioè utile, adesso non serve più perché il multimode non ce n'è più. È utile solo 34 canali, per i canali sotto di 34 canali, ma chi ci va più anche lì, ormai? Vabbè, così sì. Antone, mi sto sciogliendo, mi sa che metto a posto qua e andiamo a dormire. Sei bravo, io sì, dice che siamo quasi vicini, un bel minuto, tu che è matto. Ma fa come, ti aiuto. E allora, beh, fra poco ti arriva il bibanda, auricolare. Non lo voglio auricolare io. Li portatene io, non li veicolare. 50 euro, scusami. Tutti li portate, non veicolare. Ce l'ho io normale. C'è un tempo ben pronto. Posso mandare messaggi, cosa me ne frega a me? Oh, capisci a me che ti sta arrivando il bibanda veicolare. Ah, quello sì. Quello sì. Ci avevi pensato, no? No, la verità no, perché cazzo, ho fatto anche un'altra domanda, io lo sai, quando ho fatto solamente una, pensavo di una sola, non l'altra, la verità. Siccome c'ho il terzo posto, e quindi mi arriva anche l'altra, ho capito, vai, non mi stavo ricordando di quello. Fate che aveva anche fatto l'ordine per il coso, 101 digital ZB che sta arrivando, che viene 200 euro, non per, come 500 euro come la roba di solito capita, capito? E quindi me lo sto godendo a questo punto. Ma per l'altro lo ritiro, vediamo. Se va bene, se va bene, sono io, c'è un punto che sono in una fega, non è arrabbiato il colato, ma solo che digitale, per molti voi c'è scritto, va bene, non così, garantito, poi vediamo, vediamo, se è vero, se non è vero, poi si vedrà, aspetta il tempo, ce l'ha ancora. Se non è quello che penso io, si chiude tutto e se la piglia in culo, a un certo punto. Ok, ma sai cosa vuol dire digital nell'FT101? Sì, guarda, sto dicendo costa 125 euro. FT ZB 101 digital e costa 125 euro. Sto dicendo, guarda tu. Lo trovo così che sto andando, non con 500 euro che facciamo tutti, cosa molto ma molto di meno. Antonio, ti ho capito, io ti sto dicendo se sai cosa vuol dire digital nell'FT 101. Display è digitale, non è che c'è di molto, non è che sia malware, è diverso, hai capito? Io volevo sapere quello, se sapevi quello, perché uno pensa digital che sia digitale tipo quelli di adesso, no? Digital vuol dire semplicemente che ha, anziché la scala graduata, ha i numeri, ecco, tutto lì, la frequenza a numeri, come questo per esempio. Una scala parlante, l'altra scala digitale, sì, siccome quello di Italia, come si chiama, stanno sapendo uguale, preciso identico, quindi lo voglio così. Siccome questo conto viene e costa meno di 500 euro, perché se tu guardi nelle, se guardi nel sito FT101ZD, anzi no, fai direttamente FT101 normale, potete fare ZD, questo è digitale, e costa 200 e passa euro, non 500, ma costa 200 e passa euro, non di più. Quindi 500 euro, esagerato. Tu guarda e dimmi se non è vero. Ma io ti so, ma tu l'hai ordinato o no? Se no ce lo prendono io. No, non l'ho ordinato, perché ho stato così com'è per il momento. Perché mi interessa capire cos'è la verità, perché ce ne sono tante di quelli. Mi interessa capire se è uno di quelli normali oppure se è digitale. Hai capito? E quindi non l'ho ordinato, la verità. Comunque, ci sono comunque, ce ne sono 10 di quegli apparecchi, ce ne sono ben 10 in vendita, quindi non c'è nessun problema, quando vuoi me lo piglio e me lo ritiro. Però comunque se tu guardi su Google, fai FT101ZD, ti appare la schermata e c'è anche addirittura con il digitale, se lo vuoi. E costa intorno a 200 euro, ma come già se non ricordo male, non vuoi ti soltate. Ho visto 20 foto di quell'apparato lì. E io però ti volevo ricordare che non ha la M. C'ha la M, c'ha la FM, USB e CD. C'ha tutto, c'ha la frega, tanto sto dicendo io. Vabbè, vediamo. E che Antonio. Ah, aspetta un attimo. Guarda, sto dicendo io, guarda, molto bene, questo sto dicendo io, non è che vale 500 euro, vale molto di meno, la gente che clicca i 500 euro, ti piace di culo basta, non ti piace pregare, quindi costa molto ma molto di meno, è una cosa che più di 20 anni, cazzo, ce la fai 500 euro, ma ti ha scherzato, con 500 euro c'è la cessa, c'è un sacco di roba, c'è con 500 euro, ti fa la spesa, e ci rimane anche il resto, ci rimane la frega. Di certo mi piglio un apparecchio che ha preso per caso a 500 euro così. Perché io per quello che faccio non ammazzo per niente. Quindi se uno vuole meno di 200 euro non vale quell'apparecchio lì, sto dicendo. È roba di 20, più di 20 anni, ma molto più di 20 anni. Noi siamo, cazzo, in America siamo. A un certo punto, cazzo, allora facciamo anch'io, gli porto un, quando quello vendo gli porto un apparecchio vecchio, di 30 anni fa, dico guarda, questo costa 300 euro, mi piglio quello e siamo a posto, capisco se so. Ma io te l'appoggio, io capisco cosa vuoi dire, eccetera. Cosa ti volevo dire sottovoce? È che io sono stronzo, no? Perché già lo sai come li butti i soldi quando mi entrano. Io avrei potuto tentare a ordinare quella cosa lì, quello che piaceva a te. Tentare dalla fabbrica principale. Poi pago la spedizione, pago la dogana, ma la soddisfazione è vedere se arriva, cazzo. Ma quello lo pago io. A me interessa che tu lo ordini, io ti do sul in mano, basta che tu lo ordini, trovi la persona giusta per poter farlo arrivare, almeno uno, e se non sono uno sono due, e la mia soddisfazione cazzo di usarlo, cazzo, quello ti voglio dire, capito? Potevo usare e dirmi, beh, ma fa il culo, ha fatto una spesa, e ci ho rimesso quello che ci ho rimesso, ma almeno cazzo, ho avuto l'apparecchio che ho avuto. E ci arrivavo solamente in 4 per dire, 4-5 non di più. in tutta Italia, solo quello. Però purtroppo adesso in questo momento qui non lo... La verità non fa, perché cazzo, non so chi cazzo chiedere, chiede ai cinesi, niente, chiede a quell'altro niente, quello a quell'altro ancora niente, cazzo, sembra di andare in un buco, cazzo, un buco cieco sembra andare, cazzo. Qua se avessi saputo la ricchezza, cazzo, è così, la ricchezza, gli UFO, cazzo. Avrei mandato un coso, un messaggio, mandatemi un bel apparecchio che faccia tutte le frequenze, in modo da poter parlare da qualsiasi parte, per dire. Adesso sono dice scontate, per dire. Però è una cosa, per dire così, mentre sono un bel apparecchio sia bello, nuovo, vale quei 400 euro per dire. Ti parlo in cose in euro, che poi in dollari di diverso, ma quello che facciamo questi a 400 euro, sia bello, funziona bene, quello che è una soddisfazione. Certo, non c'è cazzo, ma cazzo fai a chiedere, il discorso è quello. È un casino, cazzo, è veramente un casino. Quello che mi fa disperare, cazzo, lo posso chiedere. Una volta c'erano magari gli americani, cazzo, della Madalena, se avessi saputo, guarda, perché sono lì, sono sicuro che gli americani mi avrebbero ordinato, cazzo, per dire, lì alla Madalena, conoscendo qualcuno magari lì alla cosa, mi avrebbero ordinato, e invece niente, ormai ti deve mangiare, diceva quello. A chi posso chiedere? Non ce ne sono qua, quindi non c'è niente, a un certo punto bisogna mangiarsi, o ce n'è o non ce ne dice, ma quello lo so. Quando ci penso io, no, in pochi mesi, no, è il magno ed è un bel, è l'accordatore, vabbè, era necessario, quello per dire, anche lì una spesa. Adesso ho messo questa puttanata nuova. Due ne prendevomi di Fritong, due. Lo so, sto succedendo, cazzo, ho comprato 1000 euro, ne avrei pigliato due, per dire. Perché con 500 euro escono due. Per dire, però, cazzo, non sai che rivolgerti, ho chiesto a Stefano, ho chiesto a Coso, cioè i cinesi non ti odono un cazzo, devi trovare una persona proprio giusta, devi trovare. Per poter ordinarlo, cazzo. Il bello è che quando c'hai soldi, a un certo punto, non c'è la persona adatta. Quindi devi trovare una persona proprio seria, in modo che sai che lui te lo ordina e ti arriva, non è che come fanno cose in Abruzzo, no? Che ti ordinano le cose e poi spariscono, cazzo, con i soldi. Quindi il discorso è quello lì. Devo trovare una persona proprio giusta, cazzo, quello mi manca, una persona giusta che mi possa fare l'apparecchio, in modo da poterlo utilizzare, c'ho un apparecchio bello, veramente bello, che esce bene, che ho pagato troppo, anche 500 euro per dire, però almeno c'ho la soddisfazione di usarlo. Purtroppo non c'è nessuno qui in Italia, non c'è proprio nessuno, devo trovare una persona giusta in Cina che me la possa far arrivare, anche due o tre, quelli che sono, cazzo, ci sono i baffè che ci sono addirittura, 40 euro, ci sono i baffè, 40 euro, cinesi, cazzo, che li vendono, cazzo, ma perché cazzo lo portano anche questi qua? Cosa li costa? Non li costa niente, per dire, solo che c'è un discorso che fa levare 30 euro di apparecchi, l'altro è spendere di più, 500 euro, cioè che se ne vendi uno, se ce ne vendi due, questa anche la colora fa anche bene, c'è anche ragione, se ne vendi manco, cosa fa? Mica spende 1000 euro quello, no, per dire. Il discorso è quello lì. Io trovo una persona proprio seria, un cinese serio, che ha voglia di spendere in questa cosa qui, e potete inviare. Allora sì, se tu riesci a avere un apparecchio così dai cinesi, ne è uno, due, tre, cioè che ne usi uno, due, siamo in 3CB che ce l'abbiamo, la cosa si espande, perché si espande, e ci guadagna anche lui. Purtroppo se non ce l'hai cosa fai? Perché tanto attacca a un certo punto. Il discorso è quello, Marco, non ci possiamo fare niente, né tu né io, mi dà la verità. Purtroppo è così, e quello è il problema. Allora, io credo di aver individuato la casa madre che lo commercializza, no? Non è un venditore che vende tutto, è la casa che lo produce, perché c'ha solo apparati Freetong, c'ha gli HF, i VHF marini, tutto, vari modelli, e tra i vari modelli c'è anche questo. Il problema è che sul sito c'è scritto per informazioni di telefonare. Io come faccio a parlare con un cinese in inglese? Io non riesco a leggere, a tradurre, e non sempre, ma parlare in inglese con un cinese no. Se ci fosse un'email, avrei scritto in inglese, mi viene meglio col traduttore. Se ci fosse un'email, ma io email in questo sito non ne ho visto. Capito? Se non basta chiedere, potete mandare in Italia tale apparecchio, mi dite come devo pagare, me lo spedite con DHL, arriva in 5 giorni, e poi forse, detto tra noi, con DHL si riesce anche a sfangare la dogana, perché DHL ha una specie di dogana interna, oppure una specie di franchigia, non lo so. Fatto sta che ti fai dichiarare un valore più basso di quello reale, quindi DHL si fa pagare poca dogana con DHL e ti arriva. Se ti arriva bene, se non ti arriva pazienza. Capito? Poi quando sai che ne arriva uno, te ne puoi ordinare un altro per un'altra persona, per dire. Sì, certo, ho capito quello che stai dicendo tu, non ti preoccupare. Il metodo giusto, adesso me lo studio un pochettino, poi vediamo Marco, perché io sono una morte con la palecchia, non ho niente da fare, quindi lo voglio, non mi piace un cazzo a me, adesso vediamo il metodo giusto per poterlo farlo venire, non me la futti nulla a me, ma quale metodo c'è per forza, perché quello secondo me, cioè non è che se l'abbia comprato così a seconda mano, quindi a qualche posto l'aveva comprato, no? Giusto? E quindi a un certo punto scopriamo che lui non mi ha fatto parlare, no, quello che non me l'ha fottuto in fatto, ormai la roba la fanno tutti quanti gli Stati Uniti, quindi a un certo punto se non è qui è di là, da qualche posto lo compriamo, e quindi non me ne frega proprio niente, già procuro il punto giusto, poi vediamo un pochettino, lo facciamo la banda e la mandiamo, poi quello che se la abbia due o tre, quelli che sono, facciamo la domanda e ce la facciamo arrivare, se la abbia in culo a un certo punto. Allora, il problema è come contattarli, solo quello, almeno se la chiede, l'ho mandata in Italia, sì o no? Poi una cosa è che probabilmente chiedono di pagare con Western Union oppure quell'altro, Money Transfer, non mi ricordo come si chiama, sono i metodi più rischiosi per pagare roba dall'altra parte del mondo. Se la ditta principale sarà onesta e te li spedisce, e comunque ricordati mai prendere due apparati assieme se non sai se arrivano, prima se ne prende uno. Due o tre, sarebbe una pazzia ordinare due o tre, magari non arrivano e hai perso molti soldi, si prova con uno, se arriva bene, sai che la ditta è affidabile e poi è quella che lo produce, cioè sarebbero dei truffatori, sarebbero disonesti se non lo mandassi, come dire che la Intec gli ordini una cosa e non te la manda, se tieni i soldi non te la manda, non esiste. Vabbè, bisogna sapere come contattarsi, io cercherò una soluzione e poi ti faccio sapere. Morto? Morto e pomponi, c'è, come facciamo adesso? Possiamo siamo tutti morti. Capito il discorso? Aspetta un attimo che me l'ho chiamato, 2 minuti. Mi ha rientrato poco. No Antonio, dai, chiudiamo subito che è tardi, anch'io vado a dormire, ciao. Capito, il discorso è solo quello, riuscire a contattarli. Ciao, buonanotte. Se preoccupare, già li contattiamo. Ci mettiamo d'accordo, te lo sto dicendo io che le... prima o poi con l'apparecchio viene a casa nostra, te lo dico io, non ti preoccupare, non me ne frega proprio un cazzo, non c'è solo in mano, non voglio qua l'apparecchio, non me ne frega proprio niente a me, voglio essere il primo a svegirarlo, per dire qua, e quindi lo voglio qua, non me la fotti nulla. Vabbè, da, ne riparliamo, ciao, buonanotte. Ciao Marco, c'è tanto, ci stiamo domani, dimmi te la, sarebbe bene, sono tutti, buonanotte.